diciamo che dopo 40 giorni, dopo due mesi, uno si riesce a mettere in contatto con loro. Ah, quindi è il contrario del cadavere, mentre il cadavere si dissolve, il fantasma si concretizza. È così. Perché nello stadio da passaggio, perché come lei ben sa, la morte non è altro che un passaggio da una dimensione. Non ho certezza di cosa sia, onestamente, non ne ho prova. Però... Beh, certo. Comunque, mettiamo che sia un discorso di universi paralleli, sappiamo che passare da un universo a un altro dobbiamo necessariamente passare verso questo tramite, che poi è la morte, che io non la vedo assolutamente come una cosa negativa, anzi secondo me vabbè, ognuno ha le sue aspettative, abbiamo capito. Comunque lei li vede tranquillamente, fa la medium, ma lei la chiamano ogni tanto per vedere fantasmi altrui oppure? No, guarda, io finora non l'ho sempre fatto per aiutare il prossimo, sinceramente. Però certo. Molto spesso mi capitano persone, non posso aiutare tutti, non tutti sono meritevoli del suo aiuto. E l'aiuto in cosa consiste? Farsi dar consigli alla gente morta? Soprattutto a gente che vive male nella propria vita, che ha tendenze suicide, perché purtroppo in questa società ultimamente stiamo scivolando tanto nel negativo. Vabbè, i medium ci sono sempre stati. Bocca al lupo e tra poco. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19:10, qui su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. È sempre legato all'argomento delle presenze strane o delle presenze negative in casa. Molti pensano che se affettando il salame si taglia in un dito o se piantando un quadro al muro si martellano il dito, beh, pensano che esista una presenza negativa in quella casa. E c'è un'aura negativa, ma semplicemente è stato cretino, te devi starci attento. Le case sono luoghi molte volte che c'erano un'infinità di insidie. Quanto ci si può far male in casa? Tantissimo. E ci si fa più male in casa che passando magari per un percorso di guerra, almeno statisticamente, perché sono meno persone che fanno i percorsi di guerra di quanto ogni giorno usino utensili, elettrodomestici, fili della luce, impianti non adeguati. E quindi la casa, al di là delle presenze negative, dei poltergeist, degli spiriti negativi e dispettosi, diventa molte volte un centro di rischio di vita, e di questo abbiamo parlato. La casa, luogo ritenuto anche sicuro, invece fra i più a rischio incidenti domestici. Che incidenti domestici? Chi è che non ne ha mai avuti? Almeno uno in tutta la sua vita. Il fermaporta in piombo da 50 kg sul quale il piede ha urtato. E la cera passata inavvertitamente su tutti i pavimenti della casa il mattino? Questo ragazzo ci scherza, ha fatto addirittura un canale su YouTube, Paul Leonard si chiama, che parla appunto di quali sono le possibili maniere per prevenire gli incidenti domestici. Ma c'è un problema davvero, noi ci preoccupiamo molte volte, andiamo in affanno per un'infinità di rischi e pericoli che ci attendono fuori dell'uscio di casa, ma in realtà ci siamo resi conto che non sono da sottovalutare i rischi che corriamo nel cuore, nel tepore, nel calore della nostra casetta. Sentiamo Renzo. Renzo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, io sono un fisioterapista e in più di 20 anni di esperienza devo dire che gli incidenti domestici sono veramente drammatici. Cioè da te vengono le persone che si fanno male in casa e tu le rimetti a posto, una cosa del genere? Io ho lavorato 15 anni in una grossa struttura, la Fondazione Tognocchi, e ti posso assicurare che almeno il 40% di chi poi si fa una protesi d'anca o resta in carrozzina, comunque sia, spesso sono incidenti domestici. Fammi qualche esempio, tu che sei del mestiere. Una signora inciampò in un filo volante elettrico dentro casa, quelle cose tipo la ciabatta per portare il filo elettrico, la ciabatta volante, muro, sì. La ciabatta volante, una rimase incastrata col piede tra due vasi di fiori annaffiando, quindi si è incastrato, fece perno, cadde e si ruppe il femore, rimase l'osso attaccato lì al... Poi no, a me la cosa che invece fece molto effetto, ma ero ancora tirocinante all'unità spinale del CTO, fu un signore cinquantenne che rimase tetraplegico, quindi dal collo in giù, paralizzato per cambiare una plafoniera in bagno. Salì su una sedia, la sedia cedette, cadde col collo sul bordo della vasca. Terribile, micidiale. Fu una cosa, no, quello veramente fu una cosa che mi lasciò... Che poi capita, uno nella fretta non ci pensa, prende lo sgabellino, quello del gabinetto. Quello che ho visto è proprio che nel pressappochismo, no? Ma io l'ho visto succedere anche a diciamo persone qualificate, cioè il muratore, pazienti come elettricisti che fa il lavoro di corte e sbrigare. La scala poggiata sul prato invece che sul pavimento, la scala è sprofondata, questa è cascata e si è rotto braccio, gamba e bacino dello stesso lato. Dai, andiamo avanti, qualche altro esempio, così vediamo, partiamo subito tosto. Altri esempi sempre di cose domestiche, ci sono state anche amputazioni. Amputazioni per cosa? Amputazioni per tipo lastre di vetro, cioè tipo nel pulire la cosa, nel pulire la finestra, la scala tocca oppure ci caschi sopra, appoggiano la scala al vetro dove che vanno a pulire, naturalmente diventa una ghigliottina praticamente. Sì, no, ma la dita dei piedi amputate. No, ma guarda, devo dire, adesso il tema di oggi è... No, ma te ti viene da ridere perché hai quel cinismo tipico dell'operatore. No, quello è ovvio, nel mio mestiere... Però tu pensi uno che lascia un piede dentro una finestra... Ma infatti ci sono i casi in cui ti dico, quel paziente rimasto tetraplegico è una cosa che mi ha segnato veramente, quelle cose per cui poi in casa veramente poi dici, aspetta, prima di fare una cosa stacchi la luce, ti metti le scarpe invece che stare in ciabatte, prendi una scala stabile, lo fai in due in modo che uno ti regge la scala. Insomma, sono quelle cose sempre diciamo che ci cadiamo, però... tutti, cioè si fulmina la lampadina, sì. Uno prende la sedia, tira su, dice adesso la cambio un attimo. In questo momento stai facendo riflettere nelle circostanze in cui ho rischiato anch'io cose del genere, ma nell'ultima settimana succede, uno va a prendere in un pensile in cucina una cosa alta e si arrampica sul piano di cottura con poca stabilità, capisci? No, momento... Tu hai parlato di una statistica delle cose dei condomini, io se non sbaglio dovrebbe essere qualcosa sul sito dell'INAIL, perché io anni fa l'ho cercato sul sito dell'INAIL e lì c'è una statistica drammatica di praticamente pensioni di invalidità pagate per queste cose micidiali, appunto, e tu non ti immagineresti mai. Cioè, io questa signora che si avvoltolò su questa ciabatta volante per non disturbare il nipote e dormiva nella stanzetta e si fece una frattura al femore, che è una cosa da chiodo endomidollare, placca, insomma, una cosa che non dici dalla fratturina e metti un gesso e vabbè, una frattura brutta, cioè cose veramente... Quindi la casa è piena di insidie. Grazie Renzo, sentiamo. Prego, Renzo ha dato subito il via naturalmente agli incidentati. Guido, che è successo? Sì, volevo raccontare proprio un incidente accaduto in casa pochi giorni fa, proprio a giustificare il fatto che sono talmente comuni e talmente banali strani questi incidenti che sono... È successo, io vivo, cioè ho mia madre che ha una signora in casa che l'assiste, la segue perché ahimè è molto ammalata, anzi praticamente è quasi in coma. Insomma. E questa signora sta in casa con lei e lascia, la tiene benissimo la casa, lascia qua e là degli oggetti nei posti dove ritiene che sia più sicuri. E l'altro giorno, quando io sono andato a vedere, mi fa vedere la testa dietro con un segno importante, proprio gli è caduto sulla testa uno di questi oggetti, era una bottiglietta di quelle che mia madre usa per l'alimentazione attraverso la canula. E lei l'aveva messa sopra il pensile della diciamo la bottiglia della Flebo, quella cosa lì. Bravi, non è proprio bottiglia della Flebo perché è di plastica. Vabbè, no, di plastica non fa tanto male la cosa di plastica. Però gli si è poveretta, gli è caduta dalla sopra dove lei le tiene tutte quante. Ma era piena di liquido, era piena di liquido. Esatto. E quindi pesava un chilo e mezzo almeno. No, secondo me 750 grammi, perché sono bottiglie da... da 700. Vabbè, una mazzata 750 grammi, da quell'altezza sì, poi aumenta il peso. Ma la cosa più incredibile è, in quel momento, quando lei era lì sotto, lì che faceva qualcosa, da sopra le cade in testa sta roba. E questo per dire quanto nelle nostre case, involontariamente, per motivi... Io sentivo poco fa l'altra persona che raccontava gli incidenti che accadono, ma incidenti veramente come questo, di una banalità di cosa, ma di una gravità... Uno dovrebbe vivere in una casa giapponese con tutti i pannelli di carta di riso, a piedi scalzi, non ci sono mobili, non ci sono suppellettili, non c'è niente, a parte le spade, non c'è niente di tagliente, uno rischierebbe forse meno. Ingegner Francesco Burrelli, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicolai. L'ingegner Burrelli è presidente dell'ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Ho voluto farle ascoltare una prima immediata e spontanea raffica di incidenti domestici. Si riconosce in queste casistiche rispetto a quello che è stato il vostro grido di allarme? Poco su quello che era il messaggio, la filosofia e il modo con cui volevamo dare non solo l'allarme ma la sensibilità in questo momento in cui si parla di sicurezza che attrae di più il sisma e le altre più grosse, ma invece ci perdiamo tutti gli altri che sono complessivi dentro la casa e che sono molto importanti. Cioè in media i condomini italiani non sono sicuri, non ci sono le regole di sicurezza, le norme di sicurezza? No, le regole ci sono e anche tante, sono poco applicate, la filosofia dell'italiano è di non applicarle, la filosofia dell'italiano è che tanto capita agli altri e lui non capita, e quando capita poi si deve trovare qualcuno responsabile a tutti i costi, mentre se invece iniziamo a fare un po' di prevenzione, un po' di filosofia, molto probabilmente iniziamo a ridurre una serie di incidenti che sono preventivabili sicuramente, una serie di incidenti che sono gestibili, una cultura del bambino piccolo che inizia ad entrare dentro casa, che viene da scuola, che si tira fuori le scarpe, che sta scalzo, che si abbassa la sua resistenza, quindi qualunque cosa tocca, anche la lavatrice che non ha la presa di terra, gli dà una scossa che gli potrebbe dare. Quindi solo per definire l'area, mi scusi, ingegnere, lei parla non delle aree condominiali, proprio dentro gli appartamenti, nelle singole abitazioni, non si tiene conto delle norme di sicurezza? No. Facciamo ancora una distinzione, gli appartamenti sono direttamente responsabili i proprietari e indirettamente anche l'amministratore perché passano degli impianti comuni, e le parti comuni, quindi scale, ascensori, cortile, androne, ambito e tutte le parti comuni che ci conducono poi a casa nostra. Quindi la somma di queste, l'illuminazione del cortile o del giardino dove magari ci sono anche dei giochi dei bambini, tutti questi anche da vedere che sia una norma o meno. Quindi io parlo della somma delle... diciamo così, delle aree dove noi normalmente circoliamo, che sono l'area di casa appena che premo il portoncino e l'area invece quando dal marciapiede entriamo nel nostro portone, passiamo il nostro androne, arriviamo il nostro pianerottolo con la scala o con l'ascensore e saliamo a casa, o andiamo nella cantina a prendere un bicchiere di vino e lì nascono i problemi perché se vogliamo non c'è mai corrente, era al buio, era inferiore l'illuminazione, pochissimi sanno che la quantità di luce che deve illuminare il nostro passaggio comune ha un certo X di lumen e che deve il minimo essere indispensabile, perché se non c'è cado un ammazzo e succede qualcosa o comunque mi rompo il femore. Comunque le tabelle che vedo io sono impressionanti, a parte i numeri ma anche l'esito poi nelle persone. Adesso abbiamo al telefono una signora, però la prego di aspettare solo un istante perché c'è un episodio che si è salvata grazie al gatto, dice lei. Vediamo come sarà possibile, ma solo tra un istante o tra poco. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Diamo subito esempio di qualche incidente domestico tra i più singolari e più, non voglio dire divertenti, ma perlomeno i più eterodossi. Ingrid, buongiorno. Gianluca, ma quanto è capitato nella nostra casa qualche inverno fa è veramente strano, però è stato, diciamo, oggetto di future attenzioni, anche perché dovevamo veramente lasciare la stanza in cui avevamo il caminetto acceso per andare a dormire e viste le temperature fredde che ci sono in zona pedemontana in inverno, abbiamo detto vabbè, chiudiamo la porta in modo tale che i gatti stiano anche al caldo e così il camino continua a lavorare durante la notte. Se non che prima di allontanarmi da questa stanza avevo messo ancora un pezzo di legno all'interno del camino con il classico guantone di amianto onde evitare di ustionare. Ah, esagerazione. Vabbè. Evidentemente era rimasto un frammento di cenere, insomma di tizzone, che inavvertitamente era finito a fianco dello scopino che uso per rimuovere la cenere. Nonostante il guantone d'amianto ha tirato il ceppo di legno in mezzo al fuoco, cosa che non si fa mai, ha schizzato la pigli ovunque, se l'è appoggiata delicatamente. Ma non aveva schizzato la pigli, c'era proprio un pezzettino di cenere, la classica cenere, magari di qualche frammento ancora. Ma dentro sono i tizzoni dentro la cenere, di solito. Vabbè, quindi ha preso fuoco lo scopetto. No, di notte, a distanza di un paio d'ore, sentiamo la porta di quella stanza che sbatteva il gatto che miagolava, il che mi sveglio sentendo questo rumore, scendo al piano di sotto, mi inonda una coltre di fumo devastante, anche perché questa cosa aveva chiaramente causato una combustione lenta, certo, lenta, prendendo anche il recipiente che aveva, diciamo, della plastica. E si era incendiato il gatto? Cosa era successo? No, il gatto fortunatamente no. Difatti a questo gatto dovrei fare veramente... Ah, il gatto vi ha salvato la vita? Mi ha salvato la vita. Con le zampine raspava, sgraffiava la porta. Ad aprire la porta. E allora io dico sempre Santa Ribò, perché veramente è grazie al gatto che noi non ci siamo intossicati. Il gatto vi ha salvato la vita. Vi ha preso con i dentini, vi ha trascinato fuori, vi ha fatto la respirazione bocca a bocca e vi ha salvato. Ma questo mica tutti capita, una fortuna del genere. Maria, lei che è successo? Buongiorno. No, io volevo raccontare un episodio accaduto a mio marito. Sì. Stava utilizzando una di quelle grattugie arancioni magiche. Non posso sentire, sì. Con l'ama. Oh. E stava grattugiando, stava diciamo affettando un finocchio. È successo che probabilmente si è bloccato, gli è partito totalmente un polpastrello. Così un'altra. Certo. Vabbè, così ha fatto un ragù al finocchio, al fine mettate tutto. La cosa poi tragica è che io naturalmente ho schizzato un fiotto di sangue molto importante. Io sono andata in bagno per prendere dell'ovatta, dell'alcol, quando ho sentito un rumore stranissimo come un baccano, arrivo in cucina, mio marito era svenuto alla vista del sangue. Eh sì, gli uomini sono un po' sensibili. Sì, molto. E che cosa? Si era rotto la testa. Sì, e altro sangue usciva. Sullo spigolo della cucina in metallo. E quindi, ma lei viene da ridere, era veramente, guardi, e fiottava sangue anche dalla testa. Vabbè, abbiamo capito, vi stiamo descrivendo uno scenario, sembra il set di Dario Argento, parliamo di tranquille cucine italiane. Luciano, cosa è successo a lei? Nicoletti, buongiorno, complimenti per quello che fa su questa radio. Dunque, io premetto che sono, diciamo così, un artigiano, sto nel mondo delle fonderie artistiche, quindi Rob maneggia cose pericolose, quindi se sa. Beh, insomma, temperatura a 1200 gradi, fusioni, rifiniture, saldatrici, quindi sa di quello che si fa. Perfetto. Invece è successo che un giorno nel 2000 io vivevo chiaramente da solo, la mia compagna a casa sua, eccetera, ci vedevamo ogni tanto da me e da lei. Un giorno sto qui a lavare i piatti, metto i piatti nel colapiatti, cade un piatto, cade un'altra cosa, io cerco di parare il tutto, invece una pirofila di vetro si spacca e mi recide completamente il tendine del flessore del pollice destro. Quindi schizzi di sangue anche lì a fiotti. Mamma mia, il lago per terra, una cosa cosa incredibile è il fatto che io ho cercato di muovere il pollice, invece è come se non ce l'avessi. E beh, ha tagliato il tendine, chiaro. La cosa è, poi mi hanno portato al pronto soccorso, un amico è corso, qui siamo andati, la sera mi hanno ricucito. Da quella sera io sono andato a casa della mia compagna perché chiaramente ero convalescente, da lì non sono andato più via, adesso abbiamo due bambine, tutto a posto. Quindi diciamo quel tendine era ciò che la separava da una scelta di vita di unione coniugale? Credo proprio di sì, signor Nicoletti, perché non lo dica forte, sennò sta girando donne per casa con l'accetta a tagliare i tendini al marito. Guardate com'è semplice, com'è immediato, che l'immagine di Iliaca, di una cucina, di un salottino, di un tinello, si trasformi in una sorta di set da film dell'orrore. Ingegner Francesco Burelli, ricordo, presidente della ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Questo non è, diciamo, esattamente il terreno in cui voi siete mossi. Voi parlate innanzitutto di impianti non a norma. Mi spiega, nell'ambito, ad esempio, degli impianti elettrici, quali sono gli incidenti e, diciamo, le accortezze più evidenti per evitarli? Sì, guardi, una delle fregature più grosse che c'è quando noi entriamo dentro casa è che, quando entriamo dentro casa, passiamo le difese del nostro essere, cioè noi, quando siamo dentro casa, ci sentiamo sicuri, e quindi la prima cosa che facciamo, per esempio mia figlia, la prima cosa che sa fare dentro casa è tirare fuori le scarpe. Nel momento che noi ci tiriamo fuori le scarpe e camminiamo sul pavimento nudo, la nostra resistenza corporea si abbassa di 200-250 ohm. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono percorso da una corrente elettrica per caso, perché c'è un filo scoperto, perché c'è la lavatrice che non è messa a terra, eccetera, io sono più soggetto a che mi passi la corrente elettrica all'interno del mio corpo, è mezzo più difficile che mi passi se io ho le scarpe isolate. Vedo che l'oggetto più vituperato, più nominato, è la ciabatta. Ma la ciabatta si può usare o non si può usare in casa? La ciabatta, quella, si compra ovunque, soprattutto dai cinesi, è utilissima, che uno ci attacca tante cose. Ma è uno strumento vietato o in teoria è tollerato purché abbia certe caratteristiche? Non bisognerebbe usarle. La multipresa invece bisogna stare attenti, anche perché la maggior parte della gente lo comprano nei supermercati. Nei supermercati nessuno guarda le istruzioni, molte di quelle prese sono fatte con filettini che non sono progettati per cosa devono mantenere. Uno ci mette molte volte solo il computer, magari lo tiene perché il filo magari è da 1,2 mm e va bene. Molti invece ci attaccano magari o la lavatrice o la lavastoviglie perché magari non riesce a prenderla, quindi si scaldano parecchio e lei magari non se ne accorge. Il problema non è quando si scaldano e lei c'è, il problema è che lei lascia la lavatrice attaccata, se ne va via, il filo conduttore si scalda, brucia l'isolante perché non era progettata per questo, e quella è una delle possibili cause. Marcella, buongiorno. Buongiorno. Visto che parlava prima della messa a terra, pronto, mi sente? Certo. Prima parlava della messa a terra della corrente. Ecco, a me era capitato così qualche anno fa, in un appartamento che avevamo su in montagna. Il signore che abitava sotto aveva messo la messa a terra del suo appartamento sul tubo dell'acqua che mi veniva in cucina. Beh, furbacchione, certo. Ecco, e io sono viva per miracolo, perché ho preso una scarica che non so che... Vabbè, è un criminale. Ecco, poi naturalmente abbiamo avvisato l'amministratore, eccetera, è arrivato l'elettricista, ha sistemato tutto. Cioè, quando apriva il lavandino uscivano fuori le scintille, praticamente. Guardi... quindi, ecco, volevo solo segnalare questo. No, bene, attenzione, non attaccate la presa a terra al tubo dell'acqua del vicino di sotto, a meno che non vogliate far fuori. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Sì, dunque, io mi sono ritrovata con un bicchiere che stava cadendo, l'ho preso al volo e mi sono tagliata il polso talmente in profondità che al pronto soccorso mi hanno chiesto ripetutamente se avevo tentato il suicidio. Chiara, ferma così, non dica altro, per favore. Francesco Burelli, volevo domandarle, ma quante sono, secondo una vostra stima, le case in Italia che possono dire di avere degli impianti a norma? In media, in percentuale? Noi pensiamo che la media possa essere più del 50% ancora da mettere a norma vera. Quindi non sono quelle case in cui non sono stati fatti lavori di ristrutturazione recentemente? Sono stati fatti, molti sono stati fatti male, molti sono stati fatti da non tecnici, molti sono stati fatti tipo quello che diceva la signora, attaccando la presa di terra ai tubi elettrici, e molti ancora ai vecchi tubi, ai vecchi, alle vecchie colonne. Però mi scusi, diciamo, ingegnere, ma oggi per esperienza personale ci sono delle norme talmente restrittive, talmente attente quando uno ristruttura casa, che è un po' difficile, bisogna proprio entrare nell'ambito limaccioso di voler per forza farla franca, perché basta che uno fa entrare in casa una ditta dei fatti dei lavori, di essere tutto la luce, il sole, tutto regolare. Quindi attenzione, molte volte per risparmiare, per cercare di fare i furbi, mettete a rischio la vostra vita e la vita di chi vi abita vicino. Alla prossima.